GR Europa. Aria di sfida a Strasburgo nella sessione plenaria in corso fino al 14 marzo in Parlamento. Il Parlamento affila le armi in vista della battaglia con il Consiglio sul bilancio pluriennale 2014-2020. Altri argomenti caldi, il Tupac, i due regolamenti sulla sorveglianza dei bilanci della zona euro, il negoziato sulla riforma della PAC, la politica agricola comune, che entra nel vivo, di cui parleremo domani con il Presidente della Commissione, l'italiano Paolo De Castro. Tensione anche per il voto, anche questo è atteso per domani, sulla risoluzione che vieterebbe il porno online, una risoluzione non vincolante ma che ha già scatenato il popolo della rete, che ha inondato il Parlamento europeo di mail di protesta. Questi dunque i temi della settimana e noi partiamo da quello che invece è stato appena deciso e che oggi esordisce, cioè niente più cosmetici testati sugli animali. Proprio da oggi infatti entra in vigore il regolamento europeo sui cosmetici, che tra le altre cose prevede il bando totale dei test su conigli, maiali, altri animali. Valentina Furlanetto ha sentito Luca Nava, responsabile area tecnico-normativa di Unipro, l'associazione italiana imprese cosmetiche. Proprio grazie all'attività dell'industria cosmetica a livello europeo, che in questo senso è all'avanguardia tra tutti i settori industriali possibili a livello mondiale, Alcuni test alternativi oggi sono disponibili e usano pelle sintetica, e in questo modo possiamo capire quanto questo ingrediente può più o meno essere irritativo. A questo punto qual è la sfida per l'Europa? È quella di convincere sempre più, con l'aiuto anche delle autorità della Commissione europea, convincere le autorità delle altre parti del mondo, la Cina è una di queste, a accettare i metodi alternativi, a evitare fin dove possibile i test su animali e a riconoscere l'utilità e la validità dei test alternativi. Quello che succederà anche per l'industria cinese è che non potrà più accedere al mercato europeo se vorrà introdurre prodotti che contengono questi tipi di ingredienti testati su animali, quindi una sorta di barriera anche per il loro ingresso. L'UE ha preso ancora tempo sull'accesso di Romania e Bulgaria nell'area Schengen, data l'opposizione di alcuni paesi, la Germania in testa, che hanno espresso contrarietà per ammissione. Per l'ammissione dei due paesi occorre infatti il parere unanime degli stati membri, ma di fronte a un ordine del giorno dei lavori del Consiglio di Affari Interni UE che avesse previsto la votazione per l'ingresso, il ministro dell'interno tedesco Friedrich avrebbe esercitato il suo veto, dunque la questione viene rimandata. Unione Europea invece deve chiudere la porta ai lavoratori extracomunitari, questo sostiene invece l'eurodeputata della Lega Nord Mara Bizzotto, che ha presentato una risoluzione sull'argomento a nome del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. È ora di smetterla con questa ipocrita politica di aprire le porte a tutti, ha sottolineato la Bizzotto. E con questo è tutto, da Gigi Donelli al microfono, da Roberto Scaltritti in regia un saluto, l'appuntamento con GR Europa domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.